Le colonie della Magna Grecia in Calabria. Tra l'VIII e il VII secolo a.C., i Greci fondarono diverse colonie in Calabria, in Campania, in Basilicata, in Puglia e a sud-est della Sicilia. Sibari, Crotone, Reggio Calabria, Taranto, Metaponto e Pestum erano i principali centri di questa grande area colonizzata, in cui fiorirono i commerci, l'agricoltura e l'artigianato. Le città erano organizzate come le polis elleniche, fondate sul concetto di città-stato autonome, a testimonianza dello stretto rapporto che legava le colonie e la madrepatria. Il mondo greco influenzò in maniera evidente le attività culturali delle colonie, che seppero dare vita, nel tempo, ad espressioni autonome ed elevate nell'arte, la scienza e la filosofia. Per questo, a partire dal III secolo a.C., si cominciò a definire l'insieme delle colonie Magna Grecia, Megale e Lassa. Il declino della Magna Grecia coincise con l'avanzata di Roma. Le città vennero definitivamente sottomesse tra il 280 e il 265 a.C. Musei e parchi archeologici della Magna Grecia. Museo Nazionale di Reggio Calabria. Già noto come Museo della Magna Grecia, è uno dei più importanti musei dell'Italia meridionale. È sorto dalla fusione del vecchio Museo Civico, fondato nel 1882, e delle collezioni di opere provenienti dai ritrovamenti archeologici effettuati nella regione in circa un secolo di attività. Noto soprattutto per la presenza dei bronzi di Riace, sicuramente i pezzi più celebrati, pur non appartenendo direttamente alla civiltà della Magna Grecia. Si tratta più probabilmente di originali dell'arte greca. Il museo presenta in una visione panoramica e analitica le testimonianze delle culture preistoriche, protostoiche, ellenistiche e romane, susseguentisi in Calabria. Ospitato nel palazzo costruito da Marcello Piacentini nel 1933, il museo si articola in diverse sezioni. La prima è dedicata all'età preistorica e protostoica, con testimonianze provenienti da Scalea, Praia Mare, Locri, Gerace, Roccella e Paludi. La seconda sezione, la più importante, è interessante, è dedicata alle colonie greche. Qui il frutto di lunghe ricerche a Locri, Medma, Caulonia, Crimisa, Crotone, Sibari, Lao, Reggio, Metauro, Ipponium, è raccolto e messo a confronto per evidenziare le diversità generate dalle differenti origini delle singole colonie, ma anche una certa omogeneità derivante dall'apporto comune ricevuto dalle popolazioni indigene al momento della fondazione, vale a dire quello che gli esperti chiamano l'elemento italiota. Qui si possono ammirare i corredi delle necropoli delle città greche, i resti architettonici e votivi ritrovati nei santuari, insieme a prodotti dell'arte e dell'artigianato. Tra i reperti riferibili alla colonia di Locri spiccano i famosi pinaches, le tavolette votive di terracotta, nonché le tavolette di bronzo che forniscono utili elementi sulla vita e sull'amministrazione dell'antica città. Il patrimonio archeologico di cui è dotato il museo è ricchissimo. Vasi, ceramiche, terracotte, gioielli, bronzi testimoniano sia l'evoluzione delle singole colonie, sia l'importanza delle città. Museo archeologico di Crotone. Inaugurato nel 1968, questo museo raccoglie importanti testimonianze della vita dell'antica Croton, ma anche di altre colonie magno-greche. Nelle sale si possono ammirare molti reperti della preistoria calabrese, in particolare un nucleo di ossidiana, rinvenuto a Isca sullo Ionio, e un cranio del Neolitico, trovato presso Girifalco. Dalle collezioni civiche, tra cui vanno citate quelle Albani e Lucifero, provengono i più significativi esempi dell'arte magno-greca: matrici, ex voto, pinaches, statuette e diversi oggetti, quasi tutti risalenti al IV secolo a.C. Dei reperti riferibili alla colonia di Croton sono da segnalare una grande statua maschile di terracotta e una serie in bronzo che raffigura Eracle. Altre vetrine contengono importanti documentazioni relative agli scavi effettuati da Paolo Orsi all'inizio del secolo e sul tempio di Era Lacinia. A Crotone sono custoditi anche importanti reperti rinvenuti nel parco archeologico della Roccelletta e riferibili alla colonia romana di Scolacium, tra cui la bellissima testa ritratto in marmo bianco che raffigurerebbe l'imperatore germanico. Da segnalare infine, sempre a Crotone, gli straordinari ritrovamenti effettuati nel luglio del 1987 a Capocolonna e costituenti il cosiddetto tesoro di Era Lacinia. Si tratta di un diadema coronato da un doppio serto di foglie, caratterizzato da treccia a rilievo, probabilmente proveniente da un simulacro della dea, di una piccola sfinge di bronzo, di una gorgone alata, di una sirena in bronzo e di un anello d'oro con castone romboidale. Museo archeologico della Sibaritide. Un altro pezzo di storia magno-greca rivive in questo museo e nei vicini scavi dell'antica città, dove una mostra permette di ammirare le testimonianze della grandezza di Sibari e dell'estensione dei suoi rapporti commerciali e culturali. Il museo, inaugurato nel 1969, è ubicato nell'ex ufficio del Consorzio di Bonifica. L'esposizione è organizzata su due piani. In quello inferiore è esposto il materiale ritrovato in località Timpone della Motta di Francavilla Marittima, dove su un precedente impianto dell'età del ferro i sibariti costruirono alla fine dell'VIII secolo a.C. un santuario. Numerose fibule in bronzo, doni votivi, ceramiche ed altri oggetti testimoniano l'arte sibarita prima della colonizzazione greca. Una differenziazione che si nota ammirando i corredi tombali esposti al primo piano, dove sono custoditi vasi, oggetti ornamentali e altri prodotti di importazione, tra cui una coppa in bronzo siriana dell'inizio dell'VIII secolo a.C. e alcuni recipienti di fabbrica corinzia. Antiquarium di Locri. A ridosso degli scavi del famoso tempio di Marasà e della località Cento Camere sorge l'Antiquarium, struttura museale inaugurata nel 1971 e che accoglie, raggruppati secondo il sito di rinvenimento, importanti reperti dell'antica colonia di Locri e Pizzefiri. Nelle varie sale si possono ammirare statuette fittili, pinaches e ceramiche varie, nonché una collezione di monete, strigili bronzei, vasi per unguento in alabastro. Museo archeologico di Vibo Valentia. Istituito nel 1969 su iniziativa di alcuni appassionati, questo museo si basa sui reperti forniti da alcune raccolte private, tra cui quelli di Capialbi e Albanese. Gli oggetti provengono dall'antica città greca di Ipponion e dalla romana Valentia. Altri reperti, rinvenuti dopo il 1975, hanno arricchito notevolmente l'esposizione, permettendo di ricostruire un altro importante tassello della storia magno-greca della regione. Importanti vasi di produzione italiota sono esposti assieme ad una ricchissima serie di terrecotte votive del VI secolo, a reperti in bronzo e in ceramica di produzione corinzia, greco-orientale e attica. In due sale sono conservati i ritrovamenti effettuati in due aree dell'antico Ippomion. Vi si possono ammirare interessanti statue fittili raffiguranti Demetra e altri frammenti di oggetti votivi. Infine, in un'altra sala sono custoditi i corredi funerari ritrovati nell'area della città moderna, tra cui spicca un'eccezionale lamina in oro dell'inizio del IV secolo a.C., con un testo greco inciso, probabilmente la versione più antica e completa tra i testi orfici finora rinvenuti. Museo Provinciale di Catanzaro. Il museo, istituito nel 1863 e provvisoriamente ospitato in un fabbricato all'interno della Villa Trieste di Catanzaro, raccoglie una delle più importanti collezioni numismatiche riferibili alla Magna Grecia, raccogliendo pezzi che riguardano quasi tutte le colonie italiote. Questa collezione presenta esemplari di straordinaria bellezza, praticamente riferibili a tutte le zecche antiche dell'Italia meridionale. Parco archeologico e museo di Roccelletta di Borgia. Fonti antiche testimoniano la presenza di un insediamento greco nella zona della Roccelletta, chiamato Skilletion, a dominio del golfo Skilleticos e dell'Istmo, che dalla valle del Corace sullo Ionio conduce al golfo Lameticos sul Tirreno, distante mezza giornata di cammino, come riferisce Aristotele. La città, posta al confine dell'Enotria, la terra del re Italo chiamata Italia, dovrebbe essere una fondazione ateniese legata a Menesteo all'epoca del suo Nostos, ritorno, alla fine della guerra di Troia. Una tradizione mitica, ripresa anche da Cassiodoro nel VI secolo d.C., la vuole fondata da Ulisse. Verosimilmente la fondazione della città è da mettere in relazione con la potente polis achea di Croton, che spingeva il suo controllo fino all'estremo sud del golfo, sulla polis di Caulon, monasterace marina. Skilletion, che non ebbe ruolo di egemonia né indipendenza formale, ebbe sicuramente un valore strategico notevole, in connessione con un altro sito della sua cora, territorio, dove sono state trovate tracce della presenza greca, Santa Maria del Mare di Staletti, in posizione arroccata a dominio del mare sottostante e dell'entroterra, dove sono note tracce di un santuario. La posizione della città la rese ambita preda anche dei siracusani, che in varie occasioni la strapparono al dominio di Croton per assegnarla all'amica Locri e Pizzefiri, e infine della popolazione italica dei Bretii, che la sottomisero dalla seconda metà del IV a tutto il III secolo a.C. Al momento non sono visibili i resti monumentali della polis su cui si sovrappose la colonia romana di Scolacium. Minerva Scolacium è il nome della colonia romana che fu fondata nel 123-122 a.C., nel sito dove precedentemente si trovava la città greca di Skilletion. La Scolacium romana ebbe vita prospera nei secoli seguenti e conobbe una fase di notevole sviluppo economico, urbanistico e architettonico in età Giulio-Claudia. Vi fu fondata una nuova colonia sotto Nerva nel 96-98 d.C., col nome appunto di Colonia Minerva Nervia Augusta Scolacium. In età bizantina diede i natali a Cassiodoro, 487-583 d.C., uno dei più grandi autori della tarda romanità, a cui si deve una quantità di opere di carattere teologico ed enciclopedico. Il declino cominciò con la guerra greco-gotica del VI secolo d.C. e si concluse con l'abbandono della città nell'VIII secolo d.C. da parte degli abitanti, che, ripetendo una pratica comune in quell'epoca sul suolo italico, trasferirono il loro insediamento sulle alture circostanti, fondando altri insediamenti, tra i quali Catanzaro Lido. I nuovi insediamenti furono comunque conquistati dai Saraceni nel 902 d.C., che vi insediarono una roccaforte che fu poi conquistata dai Normanni. Il parco archeologico di Scolacium si trova in località Roccelletta di Borgia, località completamente conurbata con i quartieri marinari del comune di Catanzaro. Dell'abitato preromano rimane poco. I resti visibili del sito dimostrano l'impianto della colonia romana, con i monumenti più importanti. Tra essi vanno segnalati gli avanzi delle strade lastricate, degli acquedotti, dei mausolei, di altri impianti sepolcrali, della basilica e di un impianto termale. Il teatro poggia sul pendio naturale della collina e poteva ospitare circa 5.000 spettatori. Fu costruito nel corso del primo secolo d.C. e fu dotato di una nuova scena in occasione della fondazione della colonia da parte di Nerva, in concomitanza con il notevole sviluppo monumentale della città e con l'ampliamento dell'intero abitato. Fu peraltro oggetto di numerosi rifacimenti successivi, fino al IV secolo d.C. Dal teatro, da rilevare, proviene la maggior parte del materiale recuperato durante gli scavi, tra cui spiccano i pregevoli frammenti architettonici e gruppi scultorei. Poco distante dal teatro si trovano i resti dell'anfiteatro, la cui costruzione risale all'epoca dell'imperatore Nerva. Il parco archeologico di Roccelletta è stato riconosciuto Meraviglia italiana. Gli scavi e l'area archeologica di Kaulon. I primi scavi vennero effettuati nel 1911-1913 dall'archeologo Paolo Orsi, all'epoca sovrintendente ai beni archeologici della Calabria e cofondatore del Museo della Magna Grecia. La struttura della città prevedeva l'esistenza di un centro urbano principale, cinto da mura e posto al livello del mare, all'interno del quale era presente un tempio dorico, di cui ancora oggi sono visibili le fondamenta. Secondo gli studi effettuati, alla costruzione di questo tempio avrebbero verosimilmente partecipato maestranze provenienti da Siracusa, data l'alta quantità di calcare siceliota. L'area antistante il tempio, attualmente coperta dal mare, era altresì occupata dal centro abitato, come testimoniato dai reperti ivi ritrovati, e che evidenziano la progressiva erosione della costa nell'area monasterace Kaulon. I numerosi reperti archeologici provenienti dagli scavi effettuati sul posto sono per lo più esposti al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. Di particolare rilievo sono due mosaici di eccezionale fattura, entrambi raffiguranti un drago, uno dei quali copre un'area di 25 metri quadri ed è quindi considerato il più ampio mosaico ellenistico reperibile al sud. Entrambi i mosaici sono attualmente esposti presso il Museo di Monasterace. Il ritrovamento del 23 luglio 2013. Il 23 luglio 2013 l'archeologo Francesco Cutteri e la sua equipe scoprono uno dei mosaici più grandi mai rinvenuti nel periodo ellenistico della fine del IV secolo a.C., che ricopre un'area di circa 35 metri quadrati. È stato ritrovato tra le rovine di quella che doveva essere una struttura termale. Il mosaico si articola ulteriormente in 9 quadrati policromi e un altro spazio con una rosetta policroma all'ingresso della stanza.